Covid. Buongiorno da Radio Onde Furlane, buonasera. Va in onda adesso Zardis Magnetics, la trasmissione è autogestita. Questa è la sigla di questo programma, Retribution dei Behind Enemy Lines. Bene, ascoltiamo ancora un pezzo dei Doom dal live al centro sociale di Udine. This one's about animal abuse. Animal abuse isn't very good. It's a load of bollocks. Exploitation. Put the inside to the best creature. much for that. Don't do anything to the best we got. I'm a best for that. Don't do anything to the best we got. Sì, un saluto anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e anche ai registi in erba, non so come definirli. Infatti la sigla era sempre la stessa, però le voci avrete notato, insomma, che è un'altra voce, appunto, quando la regia ufficiale è in vacanza, i registi in erba impazzano. Ecco, e quindi siamo su Zerdis Magnetics, come è stato detto, programma curato dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e del Friuli. Iniziamo questo appuntamento del 6 di aprile con degli aggiornamenti importanti sulle condizioni detentive di salute dell'anarchico Alfredo Cospito. Questo anche un po' per così dare delle precisazioni e smentire notizie fasulle girate in questi giorni sui media. Alfredo non ha terminato lo sciopero della fame. Le notizie girate in questi giorni sui media sono false e calunnianti, come ormai è abitudine in questa storia. Gli è stato proposto del latte, ma Alfredo lo ha rifiutato. Se deciderà di ricominciare a nutrirsi, seguirà le indicazioni fornitegli dal medico di fiducia, già da tempo. In vista dell'udienza del 18 aprile ha deciso di riprendere gli integratori. Potassio per stabilizzare il cuore, vitamine per cercare di arginare il problema neurologico agli arti inferiori e proteici. Dopo l'udienza presso la Corte Costituzionale a Roma, chiamata ad esprimersi sulla legittimità giuridica nel concedere o meno le attenuanti in relazione alla condanna per l'articolo del codice penale 285, cioè strage allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, che prevede unicamente l'ergastolo, decretata dalla Cassazione nell'ambito del processo scriptamanent, deciderà come procedere. Alfredo è stanco e in alcuni momenti fatica a mantenere la concentrazione, ma è lucido e presente. Nel reparto carcerario del San Paolo, questi maledetti non gli fanno arrivare la posta, nemmeno i telegrammi. Non gli stanno consegnando libri, nemmeno quelli che ha comperato attraverso il carcere di Opera dopo autorizzazione. Nella stanza dove è ricoverato ha solo luce artificiale, non gli è possibile distinguere il giorno dalla notte. E infine i dottori del reparto di medicina penitenziaria del San Paolo, che seguono Alfredo, hanno ancora a disposizione di non parlare e di non confrontarsi col dottore di fiducia, ma di consegnare solamente le cartelle cliniche. Questa cosa ovviamente impedisce di fatto che possa essere seguito nel modo migliore. Continuiamo la lotta al fianco di Alfredo, facciamogli arrivare la nostra rabbia e il nostro amore, perché senta che chi lotta non è mai solo. Bene, mentre questi erano gli Ausarse di qui, adesso saltiamo a ovest con i Bellicosi o Bellicosi. Il cacciatore. Recht herzlich Dank an den Kultur und wünsche euch viel Spaß mit besinnlichen Lieder von Bellicosi aus Turin. Danke vielmals. Come on. Ecco, e visto che abbiamo parlato di solidarietà e di vicinanza ad Alfredo, ci sono tante iniziative sempre, ma io annuncio un'iniziativa che per me è importante, che si svolgerà domani, venerdì 7 aprile a Nuoro, e cioè un presidio solidale con Alfredo e con chi lotta nelle galere, un presidio che esplicita proprio anche la solidarietà e l'essere al fianco di Alessio Attanasio in sciopero del vitto a Massama Oristano, ma anche al fianco di Domenico, un detenuto in sciopero della fame a Bancali, e un presidio che anche, oltre a essere contro il carcere, è anche contro il CPR, e oltre a essere contro il 41 bis è anche contro l'ergastolo. Poi, visto che abbiamo parlato del San Paolo, dei medici della polizia penitenziaria, eccetera eccetera, e bisogna insomma nominare anche questa cosa, cioè questa cosa allucinante, questa appunto mistificazione estrema, e che consiste in un'iniziativa che si è svolta lo scorso 31 marzo a Bologna presso le aule del DAMS Lab di Bologna, appunto. E in questa sede si svolgeva un ciclo di incontri dal titolo Crocevie di teatro e carcere, e il titolo, diciamo, di questa iniziativa era Riconfigurazione del carcere attraverso la cultura e la bellezza. E appunto, per riconfigurare il carcere attraverso la cultura e la bellezza, è stata chiesta la presenza, cioè c'è stata la presenza e l'intervento finale del direttore della casa di reclusione di Opera, appunto Silvio Di Gregorio. E questo per dire a che livello siamo arrivati, come se un'istituzione totale come il carcere fosse riconfigurabile attraverso la cultura e la bellezza, quando appunto intanto la maggior parte delle persone che sono detenute non hanno di sicuro accesso alla cultura, e non riescono nemmeno, come dicono, ci hanno detto i compagni di Bologna, insomma, che sono andati a volantinare, nemmeno a leggere le carte processuali. Comunque, queste operazioni così di imbellettamento, diciamo, della repressione sono veramente allucinanti. Comunque i compagni di Bologna sono andati là e appunto hanno accolto il pubblico e i passanti con uno striscione che recitava: sotto gli occhi di Di Gregorio si consuma la tortura del 41 bis, Alfredo libero, tutti liberi. Poi è stata distribuita la dichiarazione rilasciata da Alfredo all'udienza del processo Sibilla lo scorso 14 marzo. E parlando ancora di appunto mistificazioni estreme, costrizioni mute e invisibili, così abbiamo messo nella scaletta così di lancio della trasmissione, diciamo, di questa settimana, e ci sono altre due cose che colpiscono, insomma. Allora, intanto questo discorso delle mistificazioni estreme e delle costrizioni mute e invisibili viene da uno scritto di Rupert dal carcere di Spini di Gardolo, che poi magari vi leggo, che è sulla questione trattamentale, insomma, sui questi patti in bianco che vengono fatti sottoscrivere dai detenuti, ma anche dal carcere a cielo aperto, che è la società. E poi, insomma, leggendo qua e là vari contributi, un'altra mistificazione estrema e costrizione muta e invisibile viene suggerita dal discorso dei biolaboratori, che oggi non approfondiremo, ma colpisce il fatto che i biolaboratori, e cioè questi luoghi, questi laboratori dove si sperimentano virus, batteri, nanoparticelle, nuove forme di vita artificiale, e dove spesso e volentieri il committente è l'esercito, vengono chiamati laboratori di massima sicurezza invece che ad alta pericolosità, quindi rovesciando completamente il concetto. E torno a Rupert, al discorso del patto trattamentale. Ad esempio, un esempio appunto della torsione, diciamo, dei concetti, è il fatto che all'interno della scuola si è passati, ad esempio, dalla educazione civica, che poi nessuno faceva mai, praticamente era una materia così come la religione, nessuno la faceva mai. Adesso invece c'è l'educazione alla cittadinanza e l'educazione alla legalità. E appunto, questa è una forma, diciamo, di costrizione muta e invisibile, in quanto consiste nell'insegnare un generico rispetto delle regole, regole di cui però si cancellano tanto la fonte autoritaria quanto lo sfondo storico-sociale, per trasformarle in condotte indiscutibili. E questo sistema è proprio anche quello che viene applicato dagli algoritmi. Ma prima di leggervi il contributo di Rupert, magari mettiamo un altro pezzo. Erano in Zirli, storica band punk, rock, flower, friulana, indipendente. Adesso un'altra, i spacciatori di musica stupefacente. We'll be right back. Si dice spesso che il carcere è uno specchio della società, un'espressione diretta dello Stato, dei suoi regolamenti, della sua arbitrarietà, della sua violenza. È vero, il carcere può essere utile per capire alcuni dei meccanismi di pressione sociale, altrimenti più difficili da individuare. Ebbene, qualche giorno fa mi è giunta un'insolita richiesta, sotto forma di circolare, dalla direzione del carcere in cui mi trovo rinchiuso. Oggetto: patto trattamentale. Sostanzialmente una sorta di promessa preventiva che il detenuto firmatario non proverà insofferenza, non metterà in atto atteggiamenti pregiudicanti, eccetera, nei confronti dei detenuti provenienti dalle sezioni dei protetti, che potrebbero essere lì trasferiti. Da quanto mi è dato sapere, si tratta di una circolare che sta per l'appunto circolando più o meno in tutte le carceri di media sicurezza da qualche anno a questa parte. Iniziativa partita dal carcere modello di Bollate e poi estesa. Ora, al di là del fatto che chi deve essere protetto dagli altri detenuti è comunque a discrezione della direzione carceraria, risulta essere una sorta di inutile sondaggio per mettere le mani avanti qualora accadesse qualche imprevisto nella pace sociale che si vuole imporre nelle carceri. Ma soprattutto un'altra cosa, la notifica velata ad ogni detenuto che la violenza, l'atteggiamento discriminante e finanche il sentimento di insofferenza hanno un detentore di monopolio. Ecco il punto. Il sottinteso delle leggi dello Stato, scritte e non scritte, nella società dei liberi è in fondo lo stesso, a discapito di chi non ha firmato proprio alcun patto. Le leggi sono per lo più sconosciute dalla maggior parte di coloro che le subiscono, come di coloro che dicono di rispettarle. È un rapporto di carattere religioso, quello del cittadino con lo Stato. E nella misura in cui si entra nell'ombra di un totalitarismo tecnico, il criterio dell'efficacia raggiunge il primato mettendo a tacere ogni voce che si sollevi contro la verità scientifica, il fine giustifica i mezzi, il monopolio si fortifica diventando ancora meno identificabile. Così il rapporto religioso è caratterizzato dalla speranza e dalla delega in misura ancora maggiore, poiché al fondo vi è l'illusione della salvezza, dalla malattia, dalla guerra nucleare, dal cambiamento del clima. Nel frattempo, con il pretesto delle emergenze, la logica premiale attraversa l'intera società come una freccia arrugginita per tutto il corpo, proprio come avviene tra le mura di un carcere. Il monopolio deve essere indiscusso, non deve ricevere sfide nella forma dell'iniziativa individuale, ma soprattutto non devono esistere iniziative dirette a metterlo in discussione. E questo deve essere chiaro, proprio come avviene tra le mura di un carcere. Ed è qui che casca l'asino, come si comprende studiando l'origine di ogni potere. Brutalità dell'imposizione e religione della servitù volontaria sono i due lati della stessa medaglia. Non sono le leggi o i falsi patti a reggere l'impalcatura dello Stato o del carcere, ma la violenza e la paura. Sta a chi li subisce maturare le possibilità della forza che vi si contrappone. 24 marzo 2023, carcere di Spini di Gardolo, Trento, Rupert. sì. Un saluto, buonasera, benvenuti, benvenute a tutti e a tutte quelle che ci ascoltano, gli ascoltatori di Radio Onde Furlane di cui siamo ospiti sui 90 MHz in streaming, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Radiazione che manderà la trasmissione venerdì e chi ci ascolta da tutta Italia e anche da fuori. E Zardins Magnetics va in diretta come tutti i giovedì, anche stasera sono le 8:36 di giovedì 6 aprile. E forse è già stato detto, la Zardins Magnetics, la trasmissione che state ascoltando, è realizzata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. Vorrei partire proprio da Trieste. Da Trieste, dove oggi pomeriggio si è svolto un presidio informativo, sono venuto a saperlo dal canale Telegram La Breccia. In piazza Ponte Rosso dalle 17, per ricordare la città, nonostante che i giornali non ne parlino più, che lo sciopero della fame di Alfredo contro il regime del 41 bis e l'ergastolo ostativo non si interrompe, eccetera. Insomma, è una presa di parola così in pubblico da parte di compagni triestine, anche per ricordare, anzi per fare il mestiere che dovrebbero fare i giornalisti, ovvero per portare la voce delle persone che lottano alla disposizione di tutti quelli, il dominio pubblico, insomma, di chi passa su, in questo caso a Ponte Rosso in centro a Trieste. Un'altra cosa che mi premeva dire riguardo Trieste è che qualche giorno fa è stato pubblicato un articolo infame dalla testata TGR Rai del Friuli Venezia Giulia, quella che è in via Fabio Severo, un certo Andrea Saule, un giornalistazzo da strapazzo, che ha avuto così la faccia tosta di infamare un nostro compagno, Stecco, dicendo che era lui è stato l'autore dei disordini accaduti al Brennero nel maggio 2016, responsabile di devastazione. No, scusate, responsabile di questi disordini, scrive questo pennivendolo. E poi che comunque era in contatto, era stato fermato a Torino, eccetera, eccetera, insomma, perché responsabile della produzione di documenti falsi per conto di un terrorista spagnolo che sarebbe Juan Sorroque. Allora, perché sia ben chiara la questione, Stecco non è autore di nessun disordine, Stecco è un compagno che lotta, un compagno antirazzista che ci mette, insomma, ci ha messo tutto quello che c'era da mettere per bloccare queste politiche repressive e razziste che c'erano sui confini terrestri di questo stato da strapazzo, questo paese, bel paese cosiddetto, insomma, paese con i calzoni da zuava di lugubre memoria, insomma. E poi Juan Sorroque non è un terrorista spagnolo, è spagnolo ma non è un terrorista, è un altro, è anche lui un compagno impegnato, insomma, per bloccare il diffondersi di questo cancro, insomma, che è l'ideologia promossa dal partito populista, insomma, partito razzista della Lega. Ecco, messo in chiaro questo, poi passando invece, volevo aggiungere al quanto è stato detto prima sugli aggiornamenti riguardo la lotta di Alfredo, solo questa cosa qua, veloce, che è uscita oggi. Un compagno dal carcere di Tennessee, Memphis, cioè, scusate, sì, Memphis, Tennessee, perché Memphis è la città e Tennessee è lo stato. Dan Baker è entrato in sciopero della fame in solidarietà con Alfredo e tutti i prigionieri rivoluzionari. Lo fa, insomma, per unirsi appunto alla lotta di Alfredo, ma non solo, scrive Dan Baker. Le mie lotte non sono uniche, sto digiunando in solidarietà con Alfredo Cospito, compagno anarchico che è in sciopero della fame da 158 giorni, tutti i difensori della foresta di Atlanta, Willauni, i manifestanti catturati, tutti gli arrestati della rivolta del 2020, si riferisce ovviamente a Minneapolis, insomma alla rivolta negli Stati Uniti d'America in giugno e settimane seguenti nel 2020, lo zapatista Manuel Gomez Vasque, il prigioniero politico Fidencio Aldama, Emily Murphy, Kate Lamar, anche lui in sciopero della fame, James Revenge, Carl Freeston e Amber Smith Stewart e tanti altri. Vi amo e ammiro tutti. Per scrivergli, poi c'è un disegno di Dan Baker, che trovate anche questo, è Gultan Kisanek, una donna curda e prigioniera politica. Ho disegnato il suo ritratto e ho scritto alcune delle sue citazioni. Ogni giorno del mio sciopero della fame disegnerò una donna curda che è una prigioniera politica e invierò le sue parole ispiratrici a diversi amici. Se volete scrivergli, cioè, insomma, se volete contattare questo compagno prigioniero Dan Baker, vi do dai i contatti, anche perché non è che lì sono, insomma, verranno fuori anche questi sul web, ma altrimenti che ci stiamo a fare anche noi qui. Dan Baker 25765509 FCI Memphis, casella postale PO Box 34550 Memphis Tennessee 38184, insomma tutta una serie di cifre che poi ritroverete sui soliti canali. tutti quanti voi della televisione. Odio chi assomiglia poi la mia generazione. Odio Brandon Marosplay, odio il canale 6. Odio Brandon Marosplay, odio il canale 6. Odio Brandon Marosplay, odio il canale 6. Odio Brandon Marosplay, odio il canale 6. Ci siamo di nuovo in parola qui sullo streaming di Radio De Furlane o sul 90 MHz per chi ci ascolta da Friuli, insomma, e dalla pianura friulana. E, sono le circa le 20:49, per cui siamo in diretta, lo ribadisco. Qua succede tutto al volo, si mettono dischi, si fanno due parole al microfono. Mentre quello che ho prima chiamato il bel paese cosiddetto o paese con i pantaloni a zuava, dove siamo in attesa di darvi la notizia, insomma, che potrebbe esserci del moribondo ex ministro, ex primo ministro, insomma, 86enne, della sua auspicabile uscita di scena. Ma questo succede nel paese. Mentre succede questo, oltre Alpe, in Francia, siamo all'undicesima settimana di sciopero generale, di manifestazione, perché gli scioperi sono continuati, i blocchi, se mi mettete un po' di sottofondo, i blocchi stanno continuando da, appunto, mesi. E, tra l'altro, insomma, se ho ascoltato qualche aggiornamento, c'è una non indifferente organizzazione anche per sostenere le persone in sciopero, delle casse che hanno avuto un'incredibile adesione, insomma, è una roba impressionante. paragonata alla realtà nostra qua italiana, per cui mi sembra che hanno già raccolto qualcosa come 2 milioni di euro per sostenere tutti i lavoratori che stanno scioperando e non hanno reddito. In Francia appunto ci sono mezza Francia che scende in strada ogni settimana, i gendarmi che rinculano, perché i gendarmi, l'antisommossa sarebbero questi qua, che scende in Italia, che in Italia non vediamo, ecco, volevo parlarvi di questo stasera. In Italia non riusciamo mai a vedere queste scene, secondo me, perché la polizia psicologicamente impone un'atmosfera di terrore quando l'antisommossa in strada, quando siamo in Italia. In Francia tutto al contrario, insomma, da quello che si vede nei filmati, che ovviamente in TV non si curano di mandare, insomma, sono censurati, però li trovate, sono veramente delle scene dove c'è disinvoltura dei manifestanti, nessuno che dice questi qua sono soliti, i soliti complotti, sono poliziotti infiltrati che lanciano bombe molotov, non succede niente di tutto questo. Ci sono appunto questi, come si dice, plotoni di Robocop con gli scudi che rinculano davanti alla folla, che tranquillamente, insomma, li fa smammare, perché il numero è 10 volte tanto. Loro non avranno mai 100.000 poliziotti da mettere in una strada, potranno averne 10.000, potranno averne 14.000, ma non avranno mai 100.000. In Italia questo non succede perché c'è appunto questo blocco psicologico, secondo me. E da dove viene? Probabilmente viene anche dal fatto che il posto di lavoro nelle forze dell'ordine è riservato, il concorso, tranne rare eccezioni, per legge, la legge del 2014, magari del poi, ah sì, no, non la trovo in questo momento, comunque una legge del 2014 per cui i post appunto in concorso sono riservati a chi ha fatto servizio e abbia svolto un periodo di ferma nelle forze armate come volontario in forma prefissata, VFP. Quindi questo significa che chi fa l'antisommosso, chi fa lo sbirro, insomma la pattuglia, sia anche carabinieri, sia guardie di finanza, eccetera eccetera, presumo anche, ma sono quasi sicuro, insomma, sicuramente così, anche la penitenziaria, i posti sono riservati a gente che viene dalle forze armate, quindi cosa vuol dire? Dall'esercito, quindi vuol dire che ha seguito un determinato training quando ha fatto il militare, perché dal 2004, dalla legge Martino del 2004, è stato sospeso, non abolito, sospeso il servizio militare obbligatorio, che era stato fino a quel momento è stato, diciamo, in piedi. E dunque è emerso questa figura del soldato professionista sulla falsariga di quello che succedeva, diciamo, negli altri eserciti NATO sicuramente, ma comunque in seguito a questo discorso che le guerre oggi sono asimmetriche, quindi c'è da avere a che fare sempre per i soldati con un ambiente ostile, con dimensioni sconosciute, non con un altro, diciamo, un altro soldato uguale, simmetrico, armato, eccetera eccetera, ma appunto con virgolette appunto terroristi, soprattutto dopo l'11 settembre, con attacchi asimmetrici, si chiamano, insomma, attacchi imprevedibili, eccetera. Quindi questo ha portato i vertici dei militari, in questo caso della nostra Repubblica italiana, a riconfigurare questa figura del soldato come un come appunto un operatore che funziona in determinato modo, insomma, che non deve avere, non deve provare empatia per chi ha davanti, non deve soprattutto non deve porsi dei problemi di riflessività, cioè deve eseguire gli ordini senza porsi problemi di discuterli, neanche il tempo di discuterli, immediatamente deve operare, insomma, quell'ordine, metterlo in pratica. Tutto questo e inoltre avere resistenza insomma, alle condizioni più estreme a livello psicofisico, no? Quindi a possibili catture di questi organismi, tra virgolette, terroristici, possibili appunto interrogatori, possibili che ne so, qualunque cosa, no? Tutto questo viene ottenuto attraverso un training che è il solito, appunto, che si sapeva, che è praticamente quello di prima, comunque, che è quello solito del che prevede la gerarchia estrema, in quanto appunto l'esercito per antonomasia è un'istituzione totale dove non si può porre in questione nessuna delle sue regole interne. Quindi bisogna entrarci e starci dentro, subire il nonnismo, che è la principale forma di diciamo interazione che esiste tra l'istruttore, diciamo, militare e la recluta, e poi la recluta diventa a sua volta soldato e continua, insomma, questo training, e vengono l'esito, insomma, in uscita l'esito finale di questo training è appunto il soldato perfetto. Il discorso di questo soldato perfetto era appunto emerso, cioè volevo dire, quando poi tutto questo è appunto un discorso teorico, che abbiamo così, siamo andati molto veloci, siamo andati a volo su questo discorso che è molto articolato, molto, diciamo, molto dettagliato, molto approfondito. E poi metteremo i riferimenti ovviamente quando faremo metteremo online la trasmissione. Volevo dire ancora, questo è appunto da un punto di vista così teorico, scolastico, quello che succede concretamente. Poi succede spesso che tra chi ha degli scleri, aggredisce le persone vicine, non so, sì, momenti di efferata violenza o addirittura di sadismo anche nei confronti dei propri sì, di persone con cui si è vicine, ecco, di cronaca sto parlando, vengono normalmente attribuite a caratteristiche personali, individuali dell'autore del gesto, no? Ma guarda caso, spesso quando gli autori di questo gesto sono appunto appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, non si parla mai appunto di che cosa ha portato a questo comportamento. E appunto l'ipotesi che possano esistere delle cause strutturali, insomma, che sono quelle, appunto, l'esito di questo addestramento, da cui questi militari come persone poi portano a sviluppare patologie del genere della salute mentale e comportamenti violenti e addirittura sadici di questi militi, insomma, di questi militari. E che sono appunto correlati dell'addestramento che loro hanno subiti. Questo è un punto, un primo punto. L'ultimo, insomma, appunto che volevo così tratteggiare di questa questione riguarda il fatto che se noi facciamo un parallelo tra quello che è il training, appunto l'addestramento, che è comunque a cui non c'è mai uno stop dell'addestramento di chi fa questo genere di professioni, e quello che è le capacità, i saperi che permettono di svolgere un interrogatorio con metodi coercitivi, ovvero la tortura, perché benché in tutte le leggi, le costituzioni, i regolamenti internazionali a livelli insomma così teorici sia la tortura sia condannata, proibita, eccetera eccetera, senza questo genere di pratiche non sarebbe possibile imporre una disciplina, un ordine, una cosiddetta sicurezza alle realtà sociali insomma più disparate. E quindi quando si tratta di fare appunto di ottenere delle informazioni, le forze dell'ordine e le forze militari in genere mettono in campo questi metodi sia appunto non coercitivi, cioè prettamente di manipolazione psicologica, e sia poi appunto se non funziona vanno avanti e mettono in campo tutte quelle che sono le pratiche, la tortura. Si va dal waterboarding, appunto il classico, insomma, all'annegamento simulato, a appunto umiliazioni, a pestaggi, a quello che fanno gli aguzzini in sostanza, insomma, che però sono dei saperi, devono essere messi in ordine, devono essere svolti in una certa maniera, altrimenti non si ottiene l'obiettivo che si sta cercando, insomma, su questo tipo di processo, diciamo, di ottenimento delle informazioni utili a questi qui delle forze dell'ordine. Ecco, se si va a fare un'analisi, per concludere, se volevo solo dire, se si va a fare un'analisi, un parallelo di quelle che sono l'addestramento militare e quello che è l'addestramento alle tecniche di tortura, si scopre che praticamente i blocchi, diciamo, cognitivi sono gli stessi, e che spesso chi si trova a svolgere la tortura è per forza di cose è un militare, ma anche che un militare è capace di e conosce, diciamo, perché l'ha subita in prima persona questo tipo di transazione, diciamo, simbolica, relazionale, insomma, tra due persone, l'ha subita, e quindi conosce i limiti e le possibilità di questo tipo di procedura. E niente, oltre che essere inquietante, c'è anche il discorso che fa questo studioso da cui ho preso tutto questo argomento, che è uno sociologo, si chiama Charlie Barnow. C'è anche un discorso che noi però non seguiamo di non efficacia di questo metodo, no? Lui dice praticamente che anche a livello teorico, essendo che si basa sulla psicologia più cognitiva, più vecchia, quella insomma di vecchia di un secolo, quella cognitivista, dunque presuppone una dimensione di laboratorio che nella realtà, la realtà è complessa, non è un laboratorio, quindi fallisce costantemente questo tipo di impostazione cognitiva, no? Teorica, psicologica. Noi, ripeto, non seguiamo questo tipo di conclusioni, ci limitiamo così, magari ci ritorneremo, lo dico sempre, però sicuramente uno spunto anche questo. Ci ritorneremo su questo discorso dell'addestramento militare che va in parallelo con la tortura. Bene, ricapitolando, abbiamo ascoltato prima in sottofondo gli Inzirli, inframmezzati dal pezzo palindromo dei Laghetto, e in seguito i Kalashnikov, qualche pezzo in sottofondo, e dopo una tripletta Teenage Bottle Rocket, Impossibili e Fichissimi. Adesso seguiamo ascoltando gli Indigesti, e abbiamo sentito un pezzo dei Fun People nel mentre, e vi lascio al disco. We'll be right back. troppi balla. Ecco, allora continuiamo con gli spunti, diciamo, e volevo parlarvi di un libro che si intitola Con la parola e con il sangue, di Eugenia Jaroslavskaya Markon, che era appunto una rivoluzionaria, ladra e anche indovina. E un libro che è stato pubblicato dalle Edizioni Indesiderabili, e tra l'altro un libro che trovate nella nostra distro dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, quindi quando ci sono le iniziative, e tra l'altro questa edizione è a sostegno dei prigionieri anarchici in Cile. Allora, per parlare di Eugenia Markon, parto dalla quasi fine sua, cioè dall'interrogatorio che Eugenia Jaroslavskaya Markon ha subito il 12 gennaio del 1931. Io ritengo di appartenere alla stessa classe di qualsiasi elemento declassato, criminale comune o intellettuale che sia, e in generale di tutti coloro che disprezzano l'opinione pubblica, la provocano e lottano senza ipocrisia per affermare compiutamente la propria individualità. Quanto alla politica repressiva del potere sovietico nei confronti del mondo criminale, la giudico una delle più scandalose ipocrisie. Il confino e la deportazione non sono la soluzione del problema della delinquenza, sono piuttosto un modo per non affrontarlo. È il tradimento di un gruppo che fin dall'inizio ha sostenuto fervidamente la rivoluzione e non è mai stato legato all'idea di proprietà. Un tempo simpatizzavo per il partito dei bolscevichi e ho anche fatto parte per qualche mese, dal 1917, del gruppo dei Meshrayonsi, che si erano dati l'obiettivo di unire le diverse frazioni menscevica e bolscevica in un unico partito socialdemocratico. Ora però non ammetto nessuna collaborazione con un potere sovietico che ha screditato le idee della rivoluzione, nascondendosi ipocritamente dietro il nome dei soviet, sui quali in realtà non fa nessun conto, governando sotto la spinta di un pugno di intellettuali. Il comitato centrale è aggrappato al potere. Ritengo il comitato centrale, ma anche l'intera massa degli altri membri del VKP, che non hanno il coraggio di esprimere il proprio disaccordo con la linea del comitato centrale e preferiscono fargli da cassa di risonanza e allinearsi in tutto, miei nemici indiscussi, nonché nemici della rivoluzione e del popolo dei lavoratori, che il comitato sfrutta, in particolare i contadini, con il pretesto di proteggerli. La classe operaia è stata letteralmente messa sotto tutela dai bolscevichi, come si fa con i minori di età o con i deboli di mente. Comunque sia, le confezionano opinioni pronte all'uso, tutto per la paura che si ribelli e prenda davvero nelle proprie mani le redini del potere. Quanto alla lotta contro il potere sovietico, ritengo leciti tutti i mezzi, a partire dal principale, l'organizzazione di insurrezioni contadine. È di estrema importanza anche la propaganda tra le unità militari dell'Armata Rossa, allo scopo di persuadere i soldati a disertare con le armi, tornare nei propri villaggi e una volta là creare una forza armata antibolscevica. Io, si intende, non disdegnerei nemmeno un intervento di sostegno esterno, ma lo trovo superfluo, poiché il potere sovietico è completamente marcio ed è molto probabile che crolli presto. Come strumento sussidiario di lotta considero necessario il supporto del mondo criminale, in quanto eterno germe di rivolta, però il peso decisivo l'avranno i contadini e non la massa disorganizzata della criminalità, refrattaria a qualsiasi organizzazione. Certo, un'azione antibolscevica di base è concepibile soltanto in condizioni di libertà, ma anche nel lager delle Solovki è possibile svolgere una qualche attività. L'importante è alimentare in tutti i modi, facendo propaganda, il sentimento di protesta dei detenuti, soprattutto tra quelli reclutati come guardie armate, ma anche tra una parte delle guardie salariate. È possibile fare scoppiare una rivolta all'interno del campo di concentramento stesso. Con questo, naturalmente, non dico che scalzeremmo il potere, ma è senz'altro un modo brillante di organizzare un'evasione di massa. Molto efficaci, in termini di propaganda, sono gli atti terroristici isolati contro gli agenti della GPU, cioè della polizia politica. In quest'ottica ho inquadrato il mio attentato contro Uspensky, che era appunto un dirigente della polizia politica, che avevo a lungo meditato, ma purtroppo in condizioni di isolamento e di stretta sorveglianza l'unica arma che sono riuscita a procurarmi sono stati dei mattoni. Ritengo il potere sovietico mio nemico fin dai tempi della rivolta di Kronstadt, quando sono stati fucilati molti socialrivoluzionari e anarchici. Firma Eugenia Jaroslavskaya Marcon. Allora, circa un mese dopo questo interrogatorio, Eugenia venne uccisa, giustiziata, probabilmente proprio per mano di questo Uspensky, al quale lei aveva tirato questo mattone, insomma, perché non aveva altro, quando si era presentato, insomma, aveva saputo che lui aveva ucciso il suo compagno, appunto Alexander Jaroslavski, che era un intellettuale, insomma uno scrittore che aveva aderito a questa corrente letteraria dei biocosmisti. Allora, questo libro è veramente è un libretto, però è molto denso. E questa Eugenia Marcon aveva questa così attitudine particolare, diciamo affinità particolare con l'Lumpen Proletariat, che appunto era invece disprezzato in quanto renitente, diciamo, a qualsiasi forma di organizzazione. Lei proveniva da una era nata nel 1902 a Mosca da una famiglia di intellettuali e anche, diciamo, benestante, però aveva sempre era sempre stata un po' così recalcitrante rispetto al fatto di accettare questa sua condizione sociale di privilegio. E nel 17, quindi aveva 15 anni, letteralmente fugge di casa per immergersi nella rivoluzione sia a febbraio che a ottobre. E insomma fa il ginnasio, poi addirittura va all'università e si laurea in filosofia, ma quando ha 20 anni, insomma subito dopo la laurea, decide di rifiutare sia insomma questa condizione sociale sia la stabilità della vita, insomma, che le si prefigurava, e sceglie la strada. E ci sono nel libro, vabbè, adesso non c'è il tempo di leggervi delle cose, ma ci sono nel libro degli episodi molto molto particolari, appunto, di questo suo approccio con la col popolo della strada, con l'Lumpen Proletariat, appunto, con i ladri. Per un periodo, per dire, vive in una cabina della tranvia insieme a tantissimi altri senza tetto come lei, perché lei appunto sceglie di fare la senza tetto, fa la strillona, quindi vende i giornali con delle tecniche particolari, perché essendo, diciamo, intellettuale anche lei, in qualche misura riesce a catturare, insomma, l'attenzione dei clienti. E appunto fa la borseggiatrice, racconta, insomma, un po' tutte le emozioni legate al rubare nelle stazioni, salvo che poi però restituisce la merce rubata quando si tratta di merce tipo dei disegni, delle lettere, insomma, restituisce al derubato queste cose. E vive addirittura in una sorta di squat che si chiamava la Casa di Pietra, dove era l'unica donna occupante, insomma, diciamo, di questo luogo, un luogo senza fissa dimora, insomma, malfamato, ma in realtà dove vivevano dividendo, insomma, tutte le proprie cose, insomma, mettendo in comune tutto, diciamo, per sopravvivere, quindi si può dire come in uno squat. E allora, una cosa anche interessante di questa edizione, delle edizioni Indesiderabili, è che il manoscritto di Eugenia Jaroslavskaya Marcon è stato ritrovato nel 1996 negli archivi del KGB di Arkhangelsk, cioè la stessa sede che ospita attualmente la direzione degli uffici del nuovo servizio segreto russo, di cui parlarono i mezzi di informazione nell'ottobre 2018. Perché ne hanno parlato? Perché questo luogo di tortura era stato in parte, nel 2018, è stato in parte demolito da una esplosione. E questo, che praticamente è il quartier generale di uno dei servizi più infami e temuti, fu colpito non da parte di un esercito o di un gruppo paramilitare, ma da un 17enne anarchico che praticamente portava su di sé uno zaino con qualche chilo di esplosivo. E questo giovane anarchico poi non è sopravvissuto, insomma, perché appunto si è buttato per fare questo attentato, ma ha lasciato una testimonianza un po' come Eugenia, dicendo quello che da lì a poco sarebbe successo. Allora vediamo che cosa ci dice questo giovane anarchico Mikhail Vasilievich Zlobitsky. Compagni, ora nell'edificio dell'FSB ad Arkhangelsk ci sarà un attacco di cui mi assumo la responsabilità. I motivi di questo vi sono chiari. In risposta all'FSB che reprime, costruisce montature e tortura le persone, ho deciso di colpirlo. Molto probabilmente morirò a causa dell'esplosione perché innescherò la bomba manualmente. Pertanto vi richiedo di diffondere informazioni sull'attacco, chi lo ha compiuto e le ragioni. Bene, questo è quanto. Vi auguro di andare fermamente e senza compromessi verso il nostro obiettivo. Luminoso è il futuro del comunismo anarchico. E quindi insomma un po' questa storia di Eugenia Jaroslavskaja Markón ha tanti intrecci anche con il presente, poi anche questo fatto che l'edizione va a sostegno dei prigionieri anarchici cileni. E l'ultima cosa, vi invito a leggerla e a chiederci insomma il testo, a venire alle iniziative e quindi a poterlo guardare e in caso anche acquistare. E praticamente durante la sua detenzione Eugenia, in attesa poi della morte che purtroppo arriverà, decide di scrivere questa, è una sorta di diario, insomma diario che lei scrive in un poco tempo, in un mesetto, un'autobiografia che scrive in un mesetto, dove riprende tutte le questioni della sua vita. E a parte l'epilogo drammatico, perché appunto viene fatta fuori, però veramente il libro in realtà è molto spassoso, ci sono degli episodi anche esilaranti. Allora, ricordo ancora Eugenia Jaroslavskaja Markón, con la parola e con il sangue, e Edizioni Indesiderabili. Va bene, adesso ci stavamo ascoltando in sottofondo i Conflict e ci ascoltiamo Climbing the Stairs.